Europa, Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli. Cari ascoltatori, ancora un benvenuti a questo appuntamento con Europa, Europa. Oggi partiamo ricordando una notizia, la notizia che la Commissione Europea alla fine ha deciso di ripresentare il 9 novembre la propria proposta per il rinnovo dell'autorizzazione al glifosato, ma di limitarne a soli 5 anni la durata, invece dei 10 originariamente prospettati, si punta dunque a 5. Il glifosato, lo ricordo, è l'erbicida più venduto al mondo, sviluppato da Monsanto, è al centro di una controversia scientifica internazionale sulla sua presunta o probabile per molte cancerogenicità. La sua attuale autorizzazione alla commercializzazione e all'uso nell'Unione Europea, già prorogata di un anno e mezzo, scadrà alla fine di quest'anno. Il voto avrà luogo nella prossima riunione del Comitato Tecnico dell'Unione Europea. Nel frattempo, il Parlamento Europeo, con una risoluzione che ha votato il 24 ottobre, che è stata sostenuta da una forte maggioranza, ha chiesto non di rinnovare l'autorizzazione del glifosato, ma di proibirlo proprio entro 5 anni, eliminando progressivamente dal mercato e limitandone l'uso fino al divieto totale dal 2022. Ed è possibile che diversi stati membri, a partire dalla Francia, appoggino questa ipotesi nella discussione del 9 novembre. Buongiorno ancora dunque da Gigi Donelli al microfono, da Miriam Lucchetti in assistenza, buongiorno dalla redazione di Radio 24. Iniziamo da questa: l'antitrust europea ha aperto un'inchiesta sul regime fiscale britannico, in virtù del quale alcune transazioni delle multinazionali sono esentate dall'applicazione delle regole sulla lotta contro l'evasione fiscale. Tutte le società devono pagare il giusto, non è possibile riservare un trattamento più favorevole ad alcune società, ha detto in settimana la commissaria europea alla concorrenza Margrethe Vestager. Intanto avanza molto faticosamente la trattativa Brexit, ci aggiorna Leonardo Maisano. Vendite al dettaglio in caduta libera, tassi di interesse prossimi a un rialzo. La morsa della Brexit colpisce l'economia del Regno mentre il negoziato anglo-europeo è in stallo. Prigioniero com'è della faida interna al partito conservatore, il gap fra la signora Premier e il ministro degli esteri Boris Johnson, aspirante Premier egli stesso, si allarga. Johnson ha sorprendentemente promesso ai cittadini UE garanzie ancora più ampie di quelle promesse dalla signora Theresa May in un nuovo sussulto che anticipa il terremoto prossimo venturo nelle file del partito di governo. Intanto il tempo passa e il vertice di dicembre dell'Unione Europea, quando dovrà essere annunciato il passaggio alla fase 2 della trattativa fra Londra e Bruxelles, si avvicina. Bruxelles è chiara, daremo l'ok quando Londra avrà chiarito quanto è disposta a pagare per lasciare l'Unione Europea, indicando che i 20 miliardi annunciati da Theresa May sono troppo pochi. Se la Premier alzerà la posta sarà attaccata dai Brexiter, se non lo farà sarà accusata di non saper gestire il negoziato, ridando spazio agli oppositori interni, come lo stesso Boris Johnson va sempre più affermandosi. Una equazione impossibile che non si sblocca mentre la prospettiva economica s'aggrava e le banche accelerano i piani di un trasloco che minaccia di calare il sipario sull'infinito boom di Londra. Italia nelle retrovie del digitale, ma non è una buona ragione per restarci, perché nella programmazione per il periodo 2014-2020 dei fondi europei il nostro paese mostra una chiara voglia di riscatto, ha deciso di dedicare complessivamente 3 miliardi 100 milioni di euro allo sviluppo del digitale, con un occhio di riguardo specifico alle zone rurali. Una dotazione questa che situa al secondo posto l'Italia in Europa dopo la Polonia. Al microfono di Chiara Bussi è Chiara Sumiraschi, economista di Class PTS Group, che ci racconta come vengono finanziati i progetti e a chi sono rivolti. Sentiamo. I progetti sono finanziati principalmente con due fondi dell'Unione Europea, in particolare si tratta del FESR, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, e il FEASR, che è sempre un fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. sono sostanzialmente rivolti a tutti quei soggetti che possono contribuire a migliorare sia le infrastrutture del digitale sia i servizi dedicati ad imprese e cittadinanza. Restringendo il focus sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, la Campania è al primo posto in Europa, con una dotazione di circa 350 milioni da utilizzare entro il 2020. L'8,5% delle risorse complessive le è destinate per questo programma. Seguono la spagnola Andalusia e la Sicilia. La dote più consistente per il Fondo Europeo di Sviluppo Rurale, destinata alle tecnologie digitali, è invece nel Land tedesco della Sassonia-Anhalt. Ma nella top 10 figurano anche l'Emilia-Romagna, il Veneto, la Lombardia, la Sardegna e il Piemonte. Le premesse dunque ci sono, ma dovranno essere tradotte in bandi per finanziare progetti concreti. Quanto durano in genere i bandi e quali elementi devono contenere? Dunque, è difficile dire quanto durano i bandi in media perché ogni amministrazione regionale e ogni ministero può scegliere quanto tempo dedicare alla presentazione delle domande. Alcuni possono anche decidere di fare un pre-sondaggio, diciamo, per una manifestazione di interesse, ma sostanzialmente possiamo dire che sul FESR durano dai 30 ai 60 giorni, mentre nel caso del FEASR i tempi sono più lunghi. Poi ci sono dei casi positivi in cui magari si può accedere a dei finanziamenti a sportello e quindi finché ci sono risorse è possibile presentare dei progetti. Quali sono gli errori da non commettere? Gli errori da non commettere sono innanzitutto cercare di forzare quelle che sono le richieste di un bando rispetto alla propria idea di investimento. Più che errori da evitare, diciamo che cosa vale la pena fare per ottenere un finanziamento. Cercare il più possibile di capire quelli che sono i criteri di selezione e di valutazione delle domande e rispondere in modo molto preciso a queste richieste delle diverse amministrazioni. Grazie a Chiara Sumiraschi, economista di Class PTS Group. Grazie anche a Chiara Bussi. Adesso Silvia Bernardi invece ci parla del prestito d'onore, uno strumento appunto per sostenere l'occupazione. Dal Fondo Sociale Europeo arrivano 8 milioni di euro per 3.300 posti di lavoro. Ho scoperto il prestito d'onore perché stavo cercando appunto dei fondi per la mia idea imprenditoriale. Ho deciso di avviare questa attività mentre ero ancora in Inghilterra, che stavo studiando per il mio master in International Management. Il prestito d'onore ritengo sia importante perché in qualche modo dà un'occasione alle persone, dato che è un prestito anche senza garanzie. Quindi questo dà modo, con un'idea imprenditoriale a qualunque età, di rimettersi nel mercato. Lui si chiama Nicola Fabrizi ed è un ragazzo che, grazie al prestito d'onore, ha deciso di tornare a vivere in Italia, aprendo un'attività di export di prodotti tipici marchigiani. Di storie come quella di Fabrizio nella regione Marche ce ne sono molte altre, per la precisione 1355. Tante sono le nuove imprese che hanno avuto accesso al microcredito del prestito d'onore, che in tre edizioni ha generato 3.300 nuovi posti di lavoro, per due terzi occupati da donne. Quali? Asili nido, negozi di biciclette, botteghe artigianali e pasticcerie. Tutto nuovo e tutto da zero, grazie ad un investimento iniziale da parte della Commissione europea di 7,9 milioni di euro. A chi è rivolto il prestito d'onore? Alle persone che hanno tra i 18 e i 60 anni e che si trovano senza lavoro o in cassa integrazione, oppure alle donne di più di 35 anni e con un'occupazione, che intendono però lanciare un'attività imprenditoriale. La Regione Marche ha messo a disposizione, grazie anche al contributo del Fondo Sociale Europeo, microcrediti a medio termine e senza garanzie da 25 a 50 mila euro e servizi di accompagnamento personalizzato per il primo anno di attività. La Regione Marche nel panorama nazionale è sicuramente un esempio virtuoso del prestito d'onore, ma sono 75 programmi nazionali e regionali che nel periodo di programmazione 2014-2020 sono stati assegnati all'Italia per 42,77 miliardi di euro dai fondi europei. Il lavoro certamente è uno di questi settori per il quale l'Unione Europea e Italia si aspettano di raggiungere gli obiettivi entro il 2020, quali aumentare il tasso di occupazione fino al 69%, dare la possibilità a 800.000 giovani di avere accesso a servizi a loro dedicati e aiutare 1 milione di disoccupati a trovare un posto di lavoro. Sicuramente obiettivi ambiziosi, ma che il prestito d'onore può aiutare a raggiungere molto prima. Grazie a Silvia Bernardi. Vi ricordo, prima di lasciarci per un momento, per tutte le informazioni per chi è in viaggio, che potete chiederci, potete inviarci delle mail, indirizzo semplicissimo europa@radio24.it, per avere contatti, informazioni appunto su questi programmi e su questi progetti cui accedere nel caso appunto non fosse chiaro o aveste comunque bisogno di informazioni aggiuntive. A tra poco. Europa, Europa. Ben ritrovati cari ascoltatori, ancora un buongiorno da Gigi Donelli al microfono, da Miriam Lucchetti in assistenza. Questa seconda parte di Europa Europa si riapre da est, settimana intensa anche su questo fronte. Il premier ungherese intanto, Viktor Orban, ha dichiarato l'Europa centro-orientale come una zona migranti free. In un discorso pronunciato a Budapest, Orban ha spiegato che un non meglio precisato impero di speculatori ha preso in ostaggio l'Unione Europea e alcuni dei suoi stati più importanti. Questa misteriosa potenza finanziaria avrebbe indotto l'ultima migrazione dei popoli, l'invasione, così la chiama, dell'Europa. È stato escogitato un piano per fare dell'Europa un continente multietnico, ha detto Orban, ma noi opporremo resistenza. Adesso facciamo il punto sulla situazione con Sergio Nava. Ora l'Europa centro-orientale rischia davvero di diventare un problema. A 13 anni dallo storico allargamento che inserì in un sol colpo 10 nuovi paesi membri, abbattendo fisicamente la cortina di ferro che nell'intero dopoguerra aveva diviso il continente, un blocco importante di nuovi stati lancia la sfida politica a Bruxelles e ai membri storici del club. Altro che Le Pen o Wilders, il populismo sfonda ad est, con strascichi che contagiano anche altri paesi schierati nel blocco occidentale. L'ultimo campanello d'allarme è risuonato nella Repubblica Ceca con la vittoria di Andrej Babis, 63enne tycoon populista di ANO, partito antisistema ed euroscettico. Come aggiungere sale sulle ferite storiche di un paese già simbolo della resistenza al comunismo, in grado di produrre simulacri di libertà quali Václav Havel? Peccato che alla presidenza del paese dopo Havel si siano succedute due figure euroscettiche e controverse, pur con sfumature differenti, come Václav Klaus e Miloš Zeman. Fino alla vittoria elettorale di Babis, che sposta gli equilibri di Praga in modo definitivo nella zona euroscettica. Un club che nell'est Europa conta già un numero considerevole di membri. L'Ungheria di Orban, ideatore dell'ossimoro democrazia illiberale, nonché buon amico di Putin e estremo oppositore di ogni solidarietà intercomunitaria nella ripartizione dei rifugiati. Oppure la Polonia di Kaczynski, leader ombra di un governo le cui mosse sembrano da lui stesso telecomandate. Varsavia è da un paio d'anni sotto i radar di Bruxelles, dopo l'assalto contro la magistratura e la Corte Costituzionale da parte del partito di maggioranza PiS, nazionalista e ultraconservatore. C'è anche il caso della Slovacchia, singolare esempio di paese con governo socialdemocratico le cui politiche migratorie sono riuscite però a mettere in imbarazzo gli stessi socialisti europei. I quattro paesi fin qui citati sono componenti del cosiddetto gruppo di Visegrad, associazione che a Bruxelles è diventata sinonimo di spina nel fianco delle politiche europee, considerato il loro atteggiamento di opposizione costante a forme di integrazione più forti. Il ministro degli esteri polacco Wasikowski ha definito questa settimana l'Europa federale come pura fantascienza. E per un singolare caso di contiguità geografica, anche l'Austria si è unita questo mese al gruppo populista, nazionalista ed euroscettico, con la svolta a destra impressa dai popolari ÖVP del leader Kurz, fresco vincitore di elezioni con l'offerta di coalizione lanciata all'ultradestra dell'FPÖ, partito che quasi 20 anni fa spaventò l'Europa con Jörg Haider. A questo punto, in un momento storico in cui l'Unione Europea discute e negozia riforme profonde per rilanciarsi dopo la grande crisi, il blocco dell'est si sta trasformando in un problema politico che Bruxelles non può più ignorare. Grazie anche a Sergio Nava. E ora parliamo di pratiche amministrative, insomma di diritti in realtà in senso più ampio. Ci sono infatti norme o decisioni ingiuste o obblighi amministrativi discriminatori che possono rendere la vita molto difficile a chi vuole risiedere, lavorare, avviare un'attività in un paese dell'UE diverso dal proprio. Allora, se in quanto cittadino o impresa dell'Unione Europea vi capita di dover far fronte in un altro paese dell'Unione, ovviamente a ostacoli supplementari, c'è un punto di riferimento cui rivolgervi. Si tratta di Solvit. Solvit è un servizio gratuito fornito dall'amministrazione nazionale di ogni paese dell'Unione. Il servizio Riconoscimento delle qualifiche professionali, assistenza sanitaria, sicurezza sociale, libera circolazione di persone, capitali, beni e servizi, diritti di soggiorno, immatricolazione di auto e patenti, accesso all'istruzione. E l'elenco potrebbe proseguire. Quante volte in questi ambiti capita che l'amministrazione di un altro paese UE non applichi correttamente le norme comunitarie? Per vedere riconosciuti i propri diritti a livello europeo, cittadini e imprese hanno però a disposizione uno strumento informale, gratuito e rapido, offerto dai centri Solvit, che formano la rete per la soluzione dei problemi del mercato interno. I centri Solvit sono presenti in ogni paese UE, più Islanda, Liechtenstein e Norvegia. Sono contattabili via web e possono intervenire quando non sia stato ancora avviato un procedimento giudiziario. Il funzionamento è semplice. Si contatta il centro del proprio paese, compilando e inviando il modulo presente sul sito, e l'istanza viene valutata e inoltrata al centro del paese chiamato in causa. Il tutto per cercare una soluzione rapida entro 10 settimane dall'apertura del reclamo. La rete Solvit è attiva da 15 anni, si è via via rafforzata e ora si impegna a guadagnare ulteriore visibilità, come richiesto anche dalla Commissione UE, che punta molto su questo strumento. Nel 2016 sono stati affrontati quasi 2.500 casi complessivi, risolti nel tempo medio di 59 giorni. Il centro Solvit italiano, che opera presso il Dipartimento delle Politiche Europee, è fra quelli che ha trattato il maggior numero di casi, quasi 300, e si è rivelato anche uno dei più efficienti, con un tasso di soluzione che ha raggiunto il 95% contro l'89% della media europea. Dario Acquaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Tutti i dettagli sul sito li trovate come www.ec.europa.eu/solvit, oppure molto più semplicemente googolando Solvit Unione Europea andrete dritti alla pagina appunto dedicata per questo servizio. Infine, la misura della corruzione. La corruzione naturalmente è una piaga presente ovunque, a vari livelli. Completiamo allora questa puntata sentendo Vittorio Agliata di Villafranca, che è direttore della Direzione Generale Regio. Ci parla di un evento che è stato realizzato ieri a Roma, il punto sulla capacità appunto dell'Unione Europea, non solo di fare i conti con il fenomeno della corruzione. Sentiamola. La politica di coesione è il principale strumento per gli investimenti dell'Unione Europea. Il suo obiettivo è di ridurre i divari di natura economica e sociale tra le diverse regioni europee, con un mix di investimenti che può variare dalle infrastrutture viarie e ferroviarie a infrastrutture nel settore dell'ambiente e dell'energia, a finanziamenti volti a potenziare la capacità di innovare delle imprese, degli istituti di ricerca e delle istituzioni. E inoltre anche misure a favore della formazione e di una politica di inclusione sociale. Ma quanta corruzione e frode c'è nel settore della politica di coesione? Non è facile misurarlo. E l'obiettivo della conferenza G7 di Roma in questi giorni ha proprio l'obiettivo di fare passi avanti in questa direzione. Sulla base di dati disponibili presso il nostro ufficio indipendente di lotta antifrode della Commissione, le frodi nel settore della politica di coesione sono cifrabili allo 0,4% del suo bilancio. Questa percentuale può sembrare irrisoria, ma non lo è per noi. Corrisponde a più di 1 miliardo di euro che può essere stato sottratto a politiche di sviluppo, crescita e occupazione. La commissaria per la politica regionale Corina Creţu ha posto come priorità il rafforzamento delle strutture amministrative dei Paesi membri che si occupano di programmazione e investimento di fondi strutturali. Ha lanciato alcune importanti iniziative in questo senso, quali per esempio una piattaforma di scambi tra le amministrazioni pubbliche, nota con il termine di peer-to-peer, e i patti di integrità. I patti di integrità sono un'iniziativa congiunta con Transparency International, che è volta a migliorare la trasparenza, il monitoraggio civico e i risultati dei progetti cofinanziati dall'Unione Europea. Sono molto lieta di vedere che l'Italia sta partecipando con entusiasmo e impegno a questa iniziativa pilota, con 4 progetti di patti di integrità. Grazie dunque anche a Vittorio Agliata di Villafranca, lo ricordiamo direttore della DG, quindi Direzione Generale Regio, con questa con questo appunto intervento si conclude questa puntata di Europa Europa. Vi ricordo europa@radio24.it per le vostre segnalazioni o domande o richieste. Da parte mia, Gigi Donnelli, vi ringrazio, un saluto anche da Miriam Lucchetti che ha realizzato con me questa puntata. Naturalmente l'appuntamento con le informazioni è con GR24 tra un momento, tutti gli aggiornamenti, e noi ci risentiamo sabato prossimo come sempre intorno alle 12.30. Un saluto, un ottimo fine settimana a tutti voi.